Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 25 aprile 2015, gli occhiali virtuali, interazione immediata con social web e realtà aumentata. Li aveva lanciati Google 3 anni fa in forma di progetto, ma ancora prima c'era stato un prototipo di Nokia e comunque l'uso più diffuso e stabile era quello militare. Gli occhiali digitali in grado di proiettare sul vetro le informazioni che trasformano il rapporto con gli oggetti in altrettante occasioni di interazione digitale ora sono divenuti una realtà. I primi modelli sono apparsi in questi mesi nei negozi. Permettono di vedere la posta e consultare il meteo, seguire il percorso del navigatore o postare su Facebook un messaggio senza impugnare lo smartphone. Ma è ancora presto per dire se avranno successo. Molto dipenderà dall'esperienza di utilizzo. A decidere saranno dunque solo gli utenti. Fin qui la notizia del 25 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Gli occhiali Project Glass presentati nelle settimane scorse da Google sono ancora un'ipotesi, perché, come spiega Vincenzo Russi, direttore del CEFRI, il Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la Ricerca e la Formazione nell'ICT del Politecnico di Milano, i cambiamenti nel settore digitale sono repentini e straordinari e ogni previsione rischia di essere un azzardo. In questo momento sono un progetto e mi pare che infatti il termine che abbia dato Google sia Project Glass. È un progetto estremamente interessante, in realtà è nato alcuni anni fa, già c'erano società attive che avevano realizzato quelli che erano poi alla base della tecnologia che oggi Google presenta, erano gli head-up display, questi display che si proiettano su schermi di tipo trasparente. Oggi abbiamo a che fare con una molteplicità di dispositivi digitali attraverso i quali usufruiamo e fruiamo dei contenuti. È chiaro che se inseriamo in questo scenario ulteriori dispositivi come il Project Glass di Google, dobbiamo tener conto che anche questo probabilmente potrebbe avere una sua funzione d'uso in un particolare contesto e per la fruizione di particolari contenuti. Abbiamo visto delle interessanti informazioni che potrebbero essere fruite attraverso questo display LCD trasparente, riguardano ad esempio la disponibilità in metropolitana, abbiamo visto le previsioni del tempo, la distanza e il percorso per muoversi all'interno di una città ed anche addirittura la posta elettronica o informazioni che io posso condividere attraverso alcune reti sociali. Quello che non abbiamo visto è l'interazione. Tra tanti dispositivi digitali, quelli che hanno successo in realtà sono i dispositivi che poi hanno costruito un'esperienza che è piacevole per l'utente. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.